24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. L'Italia nel mirino della speculazione, ma Fitch rassicura, non ha bisogno di aiuti. Monti polemico contro l'Austria, passerà bacchetta all'Unione Europea. Per Lagarde ci sono meno di 3 mesi per salvare la moneta unica. Napolitano invita a non considerare soltanto Germania e Francia. Expo 2015, Pisapia ribadisce, sulle dimissioni deciderò soltanto dopo l'incontro con il Premier. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa, ancora in primo piano la crisi dell'Eurozona. Quella di ieri è stata un'altra giornata di tensioni sui mercati nel timore di una diffusione del contagio. A pesare sono state anche le parole del direttore del Fondo Monetario. Piazza Affari ha chiuso in calo, unica borsa europea. Lo spread è salito fino a 490 punti per poi scendere a 470 a fine giornata. Various things need to happen shortly, more shortly than 3 months, I would say. Poche parole che però non lasciano molto spazio alle possibilità. Per recuperare la situazione, per salvaguardare l'euro, bisogna fare in fretta, dice Christine Lagarde. 3 mesi, come ipotizza uno come George Soros, che spesso indovina. Prima, molto prima, afferma la direttrice generale del fondo. Non voglio dire che ci sia una deadline. Del resto, per costruire l'eurozona c'è voluto tempo ed è ancora in costruzione. Ma c'è bisogno di una risposta, una reazione chiara e veloce. Vale a dire che per metterla su la moneta unica ha richiesto anni. Ora, come spesso accade, siamo a un soffio dal mandarla al tappeto. Bene i fondi per la ricapitalizzazione delle banche spagnole, sono un passo importante, dice il numero 2 dell'FMI David Lipton, ma più in generale l'Europa ha bisogno di molto di più, visto che molti paesi dovrebbero perseguire il consolidamento fiscale. In altre parole, fin qui si è cercato di porre rimedio alla debolezza, più o meno bene, più o meno in tempo, con fondi erogati ai paesi in difficoltà. Ma il rischio contagio è evidente e i mercati non hanno accordato la fiducia sperata alla soluzione trovata per Madrid. Conclusione, solo un'Unione Europea politica e finanziaria può garantire il futuro dell'euro. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Milano ha chiuso in calo dello 0,70%, una giornata vissuta all'insegna della volatilità, realizzando la peggiore performance in Europa. Il listino è arrivato a perdere oltre il 2%, ha recuperato sul finale di seduta grazie alle rassicurazioni dell'Eurogruppo, secondo cui l'Italia non ha bisogno di un aiuto finanziario. I mercati continuano tuttavia a interrogarsi sulle possibili conseguenze del piano europeo di aiuti alle banche spagnole in attesa delle elezioni in Grecia nel prossimo weekend. In forte calo i titoli bancari, che hanno risentito dell'incremento della tensione sul mercato dei titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che ha toccato quota 490 punti base. MPS ha così perso oltre il 5%, Unicredito il 4% e Intesa San Paolo il 3,6%. Rimbalzo invece per Diassore in più 2%, Tenaris e Lottomatica che hanno guadagnato oltre l'1% circa. Positiva Telecom più 1% dopo lo scivolone della vigilia. La società ha annunciato il collocamento di bond per 1,5 miliardi che serviranno a rifinanziare una parte del debito in scadenza nel 2012. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'Italia, l'Eurogruppo rinnova la fiducia e smentisce l'ipotesi di un ricorso agli aiuti. Uno scenario questo rimbalzato da più parti, con l'irritazione del Premier Monti in particolare. Irritato e sorpreso il professore passa al contrattacco. Mario Monti risponde chiaramente al ministro delle finanze austriaco Maria Fetker, per la quale l'Italia potrebbe aver bisogno di aiuto dopo la Spagna. Il premier non ci sta. Siccome considero del tutto inappropriato che il ministro delle finanze di uno Stato membro dell'Unione Europea commenti la situazione di un altro Stato membro, mi astengo dal commentare a mia volta le dichiarazioni del suddetto ministro. Per quanto riguarda la crisi nell'Eurozona, Monti sprona invece l'Europa a gestirla con più velocità. Attacca l'Europa anche il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. Questo è un po' da indignarsi, è stato il comportamento dell'Europa. Ha reagito sempre aspettando l'ultimo momento prima del dramma. Dal canto suo il vice ministro all'economia Vittorio Grilli avverte la situazione resta difficilissima in Europa e quindi anche nel nostro paese, mentre il capo dello Stato Giorgio Napolitano ammonisce le decisioni in Europa non devono essere prese solo da Francia e Germania. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in visita a Varsavia, ha invitato a non restringere la responsabilità della politica europea a una coppia di paesi molto legati e influenti come Francia e Germania. Ci siamo detti che occorre fare ogni sforzo, anche ogni sforzo congiunto, intendo dire, perché sia un consiglio di svolta nel duplice senso di un momento di conclusiva definizione dell'impegno solidale dell'Unione per la difesa dell'euro e anche quindi per il superamento delle particolari difficoltà dei paesi che hanno maggiori pesi di debito sovrano e che tuttavia stanno facendo ciascuno per proprio conto lo sforzo necessario per uscire da questa pesante eredità del passato. Sul fronte Expo ci sono novità dopo le dimissioni del sindaco di Milano Giuliano Pisapia da commissario straordinario della rassegna Maria Chiara Grandis. Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia deciderà del suo futuro da commissario straordinario per Expo 2015 solo dopo un confronto con il presidente del Consiglio Mario Monti. L'ha annunciato lo stesso Pisapia alla conferenza stampa organizzata per fare il punto dei lavori sull'esposizione di Milano e questo dopo il ritorno dall'incontro al Via di Parigi. Commenta le dichiarazioni del sindaco il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni che è commissario generale per l'evento. Mi auguro che Pisapia ci ripensi, spiega, ma se cambiano gli equilibri anche io dovrò fare una riflessione, ha precisato. Oggi dicevamo però è stata anche l'occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, lavori apprezzati dal Via di Parigi, lavori avviati alla fine di ottobre 2011 sul sito di Rho a Milano. Expo sorgerà su una superficie di oltre 1 milione di metri quadrati. Siamo in tempo per ultimare tutto entro maggio 2015 quando l'evento comincerà, ha sottolineato l'amministratore delegato della società Giuseppe Sala. Il 56% dell'area dopo l'evento, hanno spiegato, resterà in eredità a Milano come spazio verde. Pisapia dunque aspetta l'incontro con il presidente del Consiglio per rivedere eventualmente la sua decisione. Il sindaco era a Parigi alla riunione del BIE. Non posso nascondere che sento e vivo con preoccupazione la insufficiente attenzione del governo e, salvo qualche lodevole eccezione, di gran parte del Parlamento. È questo uno dei motivi per cui nei giorni scorsi ho deciso di mettere ufficialmente a disposizione del Presidente del Consiglio il mio incarico di commissario straordinario. Una decisione difficile, una decisione sofferta, ma una decisione obbligata, che non significa tirarsi indietro, ma che anzi vuole essere una spinta a una reale, concreta partecipazione del Governo nazionale, a una maggiore attenzione, a una non solo formale assunzione di responsabilità da parte di chi ci governa per l'unico grande evento internazionale previsto in Italia nei prossimi anni. Con il sindaco di Milano c'era anche il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Mi riservo di valutare se ci saranno ancora tutte intere le condizioni di equilibrio, di efficienza e di funzionalità per poter continuare a dire ai nostri cittadini e ai paesi del mondo che ci guardano sì, noi l'Expo arriveremo a farla, perché in questi mesi questo ho detto, ma non l'ho detto perché bisogna essere ottimisti, l'ho detto perché con l'impegno di tutti i giorni, del sindaco mio, di Pisapia, di tutti quelli che lavorano, ho la convinzione che possiamo farcela ad arrivare. Oggi l'abbiamo detto al BIE, non per diplomazia, ma perché ne siamo intimamente convinti. Nelle isole Falkland sarà indetto un referendum per decidere del proprio futuro politico. Lo ha deciso il governo dell'arcipelago, conteso fra Gran Bretagna e Argentina, 2 giorni dai 30 anni della fine del conflitto. La consultazione intende mettere fine una volta per tutte alla disputa con Buenos Aires. La Gran Bretagna rispetterà e difenderà il risultato del referendum, ha commentato il primo ministro inglese David Cameron. La musica in chiusura, grande successo per il concerto di Trieste di Bruce Springsteen. La terza e ultima tappa della breve tournée italiana del Boss, come le altre, ha avuto una durata lunghissima, 3 ore e 20 minuti. Senza un attimo di sosta, in sintonia con il batterista e mentre il resto della band accusava stanchezza, Springsteen ha continuato imperterrito a saltare da un lato all'altro dei 50 metri del palco. Alla data triestina hanno partecipato anche molti appassionati del Boss dei paesi vicini, come Austria, Croazia e Slovenia. È tutto per 24 ore in Europa. Un saluto da Daniele Teruzzi in regia tecnica e da Paolo Pancera in studio. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.